Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, è tutto eccezionale questa sera, sia l'orario, sia la mia presenza, ma è doveroso perché abbiamo un live anche questa sera qui a Blu Radio Veneto con i Borderline Symphony che ci vengono a raggiungere dalla Svizzera, però prima di tutto dobbiamo dare i nostri più cari saluti, quindi buona serata a tutti voi all'ascolto di Blu Radio Veneto con Agostino Spolaore, ma soprattutto con il mio fedele compagno, sarà lui il conduttore di questa serata, io gli farò solo da piccolissima spalla. Piccolissima, mica tanto dal punto di vista delle spalle. Buonasera ai nostri ascoltatori. Ciao Maurizio, ben ritrovato anche a te e buonasera anche ai nostri, come dire, ospiti, cioè Luca Polioni e Filippo Argento, e ciao e benvenuti a Blu Radio Veneto. Grazie, buonasera. Buonasera Luca, buonasera Filippo. Hanno fatto un lungo viaggio da Zurigo. Siamo internazionali stasera, sì, Luca. Sì. Allora, prima di continuare con la trasmissione, come di consueto, i nostri dati, cioè prima di tutto il nostro numero telefonico qui in studio, lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli SMS questa sera, come sempre, come le altre sere ovviamente, c'è il 346 2320 033. Vi ricordo il nostro sito www.bluradioveneto.it, lì ci potete ascoltare in streaming 24 ore su 24, ogni qualvolta lo volete, insomma, oltre a leggere anche tutte le varie informazioni inerenti alla nostra regione e poi anche le recensioni sui vari dischi. Poi ancora le nostre frequenze 88700 e 94600 MHz in modulazione di frequenza. Credo di aver detto tutto. Sì, facciamo un saluto di pronta guarigione a Stefano, che stasera doveva essere lui presente, però ha preso un po' di influenza, e salutiamo il nostro direttore artistico che ha organizzato il tutto, Alberto Prisco. Ciao Alberto, ciao e buon ascolto anche a te. Maurizio, io ti cedo la parola. Sì, benissimo, parliamo di questo duo che viene dalla Svizzera, caro Luca e caro Filippo. Avete fatto un lungo viaggio, però la musica, anche se si fa un lungo viaggio, la musica non ha confini, non ha percorsi, non ha chilometri, vero Luca? L'idea, il progetto, come è nato? Quanti anni fa, Luca, di questo Borderline Symphony? Il progetto è nato... C'è qualcosa che fischia, eh? Sì, una cuffia. Le cuffie che siete un po' troppo alte. Abbassiamo un pelo. Ok. Vai, Luca. È nato 5-6 anni fa. Ci siamo incontrati a un concerto e poi... Di quale concerto, ti ricordi? Era un concerto di un gruppo canadese che si chiama Metric. Ah, benissimo. E abbiamo deciso di suonare lì. Poi... siete ispirati, possiamo dire questo? Sì. Abbiamo pensato che fosse bello, perché ci siamo incontrati prima in un paio di concerti e poi lì abbiamo deciso di... Di cominciare a suonare assieme. Sì. Quindi il progetto è nato nel 2006, mi pare, all'incirca. Circa, sì, sì. A Zurigo, sì, chiaramente. A Zurigo, sì. A un concerto. E l'idea di fare questi pezzi assieme, come si è sviluppata lentamente? Perché avevi già scritto, o Filippo, avevate già scritto dei pezzi precedentemente? Qualcosa avete già scritto oppure no? Sì, abbiamo suonato in altri gruppi prima, non era un po' tanto soddisfatto. Non eri soddisfatto? Sì, sì. Poi abbiamo pensato di fare una cosa nuova che facciamo soltanto questi, non lo so, questo che ci piace. Esattamente. E già il titolo che è molto divertente, Ragazze con pistole. Infatti come mai Ragazze con pistole, Luca? Come dato questo titolo abbastanza ironico, molto moricone, molto western agli italiani. Sì, sì. Ci sono tante referenze al cinema. Il titolo è nato da un film di Mario Monicelli degli anni 60, certo. La ragazza con la pistola. Esattamente, con Monica Vitti. Sì. Esatto. Vedi, sei esperto di cinema, eh? Sì, sì, l'ho studiato. Ah, l'hai studiato? Sì. Hai fatto un corso di laurea di cinema? Sì, un master. Ah, hai fatto un master? Sì. Bene, quindi... Ti sei introdotto così all'ambiente praticamente. Sì, ma pure lui non l'ha studiato, ma... Anche Filippo? Andiamo spesso al cinema così. Ho capito. la Svizzera è famosa per il festival di Locarno del cinema. Sì, ma non proprio per il film, ma per il festival. Ah, per il festival. Vabbè, ok, l'hai detto te. Sì, no. Benissimo, allora l'idea è cominciata, si è sviluppata così dal cinema... Questo discorso, il vostro disco ha tanti riferimenti, sia Filippo sia Luca, di tanti motivi musicali, di tanti input musicali, sì. I vostri amori musicali praticamente. Sì, sì, sì, infatti è difficile a dire tutti, ma forse questa più principale è il New Wave, la New Wave. Forse, ma ascoltiamo pure Al momento, per esempio, un sacco di prog. Cosa si sente? Che prog si sente in Svizzera adesso, a Zurigo? Adesso si sente Steven Wilson. Steven Wilson. È uscito con un nuovo disco nuovissimo. E deve essere anche nella classifica svizzera, deve essere nei primi 10, mi pare. Bella. Non lo so. Sì, sinceramente. Sì. Ok. C'è il concerto a Zurigo. C'è un concerto. Mi sa che proprio settimana prossima. Che andrai a vedere, forse? Sì, sì. Certo. Già, con Filippo, chiaramente. Sì, sì. Già comprato il ticket. Avete già comprato il biglietto. Sì, sì. Bello così, bello, divertente. Steve Wilson è un musicista importante. Infatti, e questo è che uscito adesso deve essere proprio il suo capolavoro. Esattamente. Dicono. È molto poliedrico come musicista di Wilson. Sì, sì. Decisamente. E anche voi siete poliedrici, avete tanti riferimenti e tanti momenti della vostra musica. Ok. Adesso facciamo una prova di sentire i vari riferimenti. Okay. Sentiamo il primo pezzo, abbiamo scelto un primo pezzo da disco. Lo sentiamo, il titolo di Agostino, qual è il titolo? È un omaggio a Morricone. Sì, ha cambiato una parola, ma insomma dice per qualche euro in più. Ecco, per qualche euro in più, bellissimo. Dal Luca. Dollaro all'euro, forse ci guadagniamo magari. Adesso lo sentiamo e poi ne parliamo assieme a Luca. Maurizio, prima di far partire il disco ci siamo dimenticati di una cosa importantissima. Certamente, dimmi. Dobbiamo salutare quello che doveva essere al posto tuo. Sì, l'ho salutato prima. Ma gli facciamo anche gli auguri. Gli auguri di ritornare subito lunedì prossimo. Quindi ribadiamo che non c'è Stefano Dainese questa sera perché non sta molto bene, quindi purtroppo c'ho il nonnetto che mi fa compagnia. Vuoi fare? Stasera tocca a me. Va bene, a parte gli scherzi, ci ascoltiamo qualcosa appunto della Borderline Symphony, e cioè per qualche euro in più. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Cosa dici, Agostino? Un bello omaggio a Morricone. Morricone. Ah, bello, bello, ampio. Tu, Luca mi diceva, microfono spento, spero che sia un buon omaggio a Morricone. Ma certamente è stato un buon omaggio a Morricone. Grazie. L'idea di fare questo arrangiamento, Luca e Filippo, come l'avete avuta praticamente? Cosa ti è ispirato, oltre al western morriconiano? Forse prima c'erano queste chitarre e tutto treble, no? Sì. E poi abbiamo... Prima il pezzo era un po'... Un po' scarno, sì, sì. Ridotto. E poi abbiamo, mentre registrando, l'abbiamo riempito con tutto il allargato. Queste cose, poi questo è andato benissimo. Un critico scriveva che il vostro non è propriamente un disco lo-fi, è un disco pieno di suoni, perché lo-fi di solito è molto cupo, molto con pochi suoni. Il vostro è un disco pieno di suoni, 5 anni di duro lavoro per farlo, o no? O quasi? Sì, sì, ma... Lo-fi abbiamo pensato così perché non era registrato in uno studio professionale. E era solo con un recorder a 24 tracce, così. Avete registrato con un recorder a 24 tracce, con un registratore a 24 tracce, quindi è una cosa artigianale, ma tra virgolette è fatto molto bene con la vostra intuizione. Tu hai suonato, che strumenti hai suonato nel disco? Chitarra e voci e un po' tastiere. E Filippo? Filippo ha fatto il basso e tastiere pure. Il basso e tastiere. Sì. E per la batteria abbiamo lavorato con amici. Con altri amici che vi venivano, hanno dato una mano. Sì, sì. Ogni volta c'era la batteria da utilizzare. Sì, sì. Poi parlando, le recensioni sono state tutte positive che ho letto io. E parlava, si avvicinava a Stan Ridgway in questo pezzo. Aveva ragione, il Voodoo. Cosa dici? Non ho capito. Si avvicinava a Stan Ridgway in questo pezzo di apertura. Secondo me va bene, è proprio giusto. Stan Ridgway è un grande musicista e aveva quel mood molto morriconiano anche lui di okay. Scrivere praticamente. Benissimo, adesso facciamo una cosa molto semplice, caro Filippo. Siete pronti, caro Filippo e caro Luca? Siete pronti per suonare? Are you ready? Sì. Suoniamo che cosa adesso? Che pezzo avete deciso? Suoniamo, si chiama, è il secondo pezzo dell'album e si chiama La notte del dottor Dolce Vita. E che è un omaggio a Fellini, o no? Fellini, poi Antonioni e poi Leone, un po' tutti. A tutti i maestri del cinema italiano. Sì. Benissimo. Invitazione anonima per una festa in villetta sulla collina fuori città, chissà che là mi aspetterà. Narris a mezzanotte come in un film di Leone, guidando come Gasman ci vado là, è tardi già. C'è l'odore di campagna, fra un po' c'è l'estate qua, un po' nervoso ci entro ma la gente là non mi saluta. Il sole a mezzanotte come in un film di Antonioni, fumando come la Loren, la vedo là, è sola al bar. Devi trovarti un'altra, una sigaretta, lo dice annoiata, un po' piangendo, no, no, no, no. Bagnata come una sirena, asciugamani qua e là, non vedo un pesce in piscina, è troppo bella ma non lo sa. whisky a mezzanotte come in un film di Fellini, bevendo come la Vitti, la vedo là e solo al bar. Devi trovare la chiave della sportiva, lo dice aspettando, un po' accesa. Oh no, no, no, no. Benissimo, Luca e Filippo in Borderline Symphony. Questa la parlavamo della dolce vita in senso più ampio del termine, con riferimento a tanti registi. Abbiamo parlato di Leone, hai citato Gasma, hai citato Fellini, Monicelli, eccetera, eccetera. Antonioni. Quindi è chiaramente tutto il tuo curriculum di studente, di studio del cinema è venuto fuori praticamente, Luca. Sì, forse sì. Nel senso positivo, sì. Assolutamente positivo. Sì. Nel disco era una ballata electropop, qua è una ballata solamente pop acustica stavolta. Sì, sì. Electropop che dava un senso, era molto avvincente, molto coinvolgente. Era una, poteva essere anche un singolo potenziale se si usano ancora i singoli. Cosa dici, Luca? Non lo so, è un complimento se dici questo. Sì, secondo me è molto accattivante, vero Agostino? Entra immediatamente in circolo. Okay. Sì. Ti prende subito. Ti prende immediatamente. A noi piacciono le melodie che entrano. Veloci, subito, sì. A colpo okay. Sicuro praticamente. Okay. Quanto ci avete messo a organizzare questo pezzo, a strutturare questo pezzo? L'idea, come è nata? Questo era un po' un lavoro duro, era, non lo so... Abbiamo avuto diverse versioni prima, ma... Non ti piacevano? No. Dimmi. Era una versione, era un po' come i Pixies. Ah, ho capito. E poi, ma era un po', non lo so, troppo alternativo. Nah. Quindi era poi troppo... abbiamo messo un po' dei synth. Sì, avete un po' adagiato, un po' più calmo, più attraente, anche se i Pixies sono molto attraenti musicalmente, sì, certo, parlando. Certo, ma... Però sono un po' difficili qualche volta, ecco, forse quello. Bene, interessante. Quindi abbiamo già citato i Pixies e tanti altri riferimenti. C'è anche del punk nel vostro disco. Sì, sì. È bello, bello così. Quindi siete molto aperti a tutti i vari riferimenti, sì. A tutti i vostri amori musicali. Ascoltiamo un po' di tutto. Ascoltate così, un po' di tutto. Visto che avete suonato, tu dicevi che avete suonato in altri gruppi precedentemente. Erano solo appena accennati, siamo d'accordo, però anche quello vi ha fatto bagaglio, vi ha fatto un certo peso, sì, certo, vi ha costruito. Certo. E prima erano un po' gruppi... Forse da garage, sì, sì. Garage band, sì. Ma nel senso, cioè, suonavate in qualche garage o no? Sì, no. Sì. Sì, è vero. In una cantina, in una cantina di un amico, sì. È bello suonare in una cantina di un amico. Sì, ma è tutto un po' umido. Anche i Beatles suonavano in qualche cantina molti anni prima. Chi? I Beatles suonavano anche loro in qualche cantina molti anni prima. Benissimo, ok. Ci stiamo passando piacevolmente questa conversazione con i nostri amici che vengono da Zurigo, ma musicalmente molto lo fai, come abbiamo già detto, ma un lo-fi molto accattivante, molto divertente, molto spensierato, non sempre spensierato, però musicalmente interessante, posso dire questo, Luca? È un bel lavoro. Oh, grazie. No, avete fatto un bel lavoro, un lavoro duro, ma un bel lavoro. Avete fatto voi due praticamente, assolutamente voi due, è in autoproduzione, sì. Al 100%. Sì, sì, sì. Solo il mastering non abbiamo. Solo il mastering, esattamente. Ovviamente. Non è semplice, è difficile, però avete deciso di incidere un disco, è una cosa meravigliosa incidere un disco, andare fuori con un disco, cosa dite? Sì, è un po' un traguardo raggiunto. Sfida. Era come si chiama? Faticoso, si dice. Molto faticoso, sì. Perché qualche volta abbiamo pensato di smettere tutto. Ah sì? Eravate stanchi? Sì, tu e Filippo sicuramente. Sì. Ma era più stanco Filippo o più stanco te? Non lo so, forse tutte tutti e due. Perché in Svizzera un tempo abbiamo suonato un po', abbiamo fatto un po' dei concerti, ma la gente non si interessava molto, così era un po' frustrante. Ah, ho capito. Sì, hai detto una cosa giusta, cioè era sì, suonavate, però non erano molto interessati. Sì, sì. Però dopo le cose sono cambiate, o no? Speriamo. La cosa è, no, adesso in Italia non abbiamo un po' come... siccome abitiamo a Zurigo, non sappiamo come viene recepita qua, sì, dentro il discorso, Italia, in sì. Italia. Però avete fatto già qualche data qua da noi? No, siete venuti qua appositamente, sì. Siamo molto onorati di questo. Siete venuti pure qua. Noi siete venuti qua a suonare proprio per noi, sì. Benissimo. Quindi passiamo un altro pezzo adesso da disco. Io volevo chiedere una cosa. Vai. Perdonami la curiosità, Luca, ma perché questa copertina, cioè questo tavolo mezzo, questa tavola rotonda, mezza imbandita con un pesce sul piatto, una sedia e questo uccello che sta volando? E poi il titolo invece dice ragazze con un pistole. È proprio per questo, perché come si dice, fa domande, crea domande. Ah, ho capito. E ci sembrava un po'... è bello perché era un po' una cover tipo rock. Ah, ho capito. Adesso non lo so, sinceramente, sì, certo. Non so se è veramente adatto per la musica, non lo so. Cioè, c'è una copertina che fa domande, nel senso crea interesse, possiamo dire questo. Sì, forse. Sì, perché ti domandi cosa stanno a significare queste cose. Infatti è una foto fatta in Italia. Ma di un dipinto? Di un dipinto. Io sono ignorante. In una, come si chiama? In una camera con una rotonda. Una cupola. Una volta. Sì, una volta. Sì. Ah, ho capito, un affresco, tipo affresco, tipo affresco, sì. Ho capito, è stata fatta là, praticamente, l'idea è partita da te, l'idea della copertina. Ti piaceva questo? Sì, questo? Sì. Ah, bene. E Filippo ha detto anche lui, ok. Sì, per lui. per lui va bene. Andiamo un altro pezzo da disco che avete scelto, ti ricordi che traccia hai scelto? La terza era, si chiama Settimana Snob. È tipo una indie anni 80, new wave. Ah, è una canzone vecchissima. Che poi cosa devo dire? No, benissimo, è una canzone vecchissima, adesso la sentiamo e poi ne parliamo ancora. Sì. Va bene. Ok. Lunedì sushi, martedì yoga, mercoledì golf, giovedì volcane, venerdì meditare, sabato shopping. radio. SMS 346 23 20 033. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Settimana snob, allora. Dobbiamo sottolineare una cosa, caro Luca. Filippo ha un cognome molto western, da western, si chiama Argento, Filippo Argento, quindi è molto in tono, esattamente. Allora, dobbiamo sottolineare una cosa, cari ascoltatori. Luca e Filippo non sono di lingua madre italiana e Luca è molto bravo a seguire il mio discorso, non è semplice, è molto difficile per lui, quindi è molto bravo e dobbiamo sottolineare questo qua, Luca. Tu sei, tua mamma è italiana, chiaramente, sì, ma... però ma tu non parli italiano, tu parli tedesco nel cantone tedesco, sì. E giustamente tu hai detto una cosa, perché hai voluto tradurre i pezzi in italiano, hai voluto cantare in italiano? La cosa era così, prima ho cantato in inglese, ma come fanno tutti i gruppi in Svizzera, ma poi ho pensato a un certo punto che non è abbastanza autentico. Poi è un po'... artefatto, non ti piaceva? No, no, no, era anche un po' più difficile. E così ho provato in italiano. È un po' paradosso perché non parlo troppo bene, ma se canto... Se canto mi va un po' meglio, diciamo. Cioè, prendi più fiducia praticamente. Sì, forse perché hai imparato a memoria il testo e quindi... Sì, e sento altre canzoni italiane, certo. Poi c'è il suono... È la melodia. Più vocali. Esattamente, sì. Melodia nostra. Sì, sì. Parlando di questo pezzo, Settimana Snob, tu hai detto giustamente un pezzo vecchio, perché l'avevi scritto un po' di tempo fa e anche perché è un pezzo punk, post-punk, sì. Possiamo dire assolutamente, veloce, sì. alla Ramones, 2 minuti, 2 minuti e 30. Sì, non so esattamente quando... L'hai scritto? Sì, ma forse sette anni fa. 8 anni fa. E l'hai tenuto nel cassetto per tanti anni allora? L'abbiamo suonato pure con un altro gruppo, ma adesso l'abbiamo fatto nuovo. L'avete rifatto praticamente, l'avete ripreso? Sì, un po' più arrangiato. Più arrangiato. Sì. E gli arrangiamenti li fatti assieme o c'è, tu metti la mano, poi Filippo interviene o viceversa, com'è il discorso? Dipende, qualche volta facciamo così dal vivo e qualche volta uno ha un'idea. Poi ho capito. Mentre registrando così. Ma arrangiate, cioè i pezzi li potete cambiare dal vivo, questi sono i pezzi dell'album, dal vivo li cambiate quando suonate, sì, sì. Davanti a un pubblico li volete anche cambiare, allargare, stringere? Sì, sì, certo. Se no è un po' noioso. Provoca noia negli ascoltatori, forse un po' egoista, ma ma ci piace più a cambiare un po' le cose. Certo, ma è bello così, vuol dire. Siete coraggiosi allora a cambiare. Non lo so. Benissimo, cosa dice Agostino? Facciamo sentire un altro pezzo dal... come vogliono loro. Siete pronti per suonare un altro pezzo live? Sì, sì. Ok, che cosa, Luca e Filippo? Si chiama Gioventù senza gioventù. È ispirato pure da un film di Francis Ford Coppola che si chiama Youth Without Youth. Benissimo. Adesso vuole provare Filippo un momento l'organo. Prova pure. Ok. Le ragazze qui non escono e non parlano, rinchiuse a casa con tutta pubblicità. Adolescenza gioiosa in uno centro commerciale. I ragazzi qui non sognano e non soffrono, distratti dalla pressione dell'università. Adolescenza gelata in uno spazio in provincia. Effetto dell'organo di Filippo, tastiera vintage, possiamo dire così, Luca, un sì, po' anni 70, anni sì, piace. Quello discorso. Suono caldissimo. È suono caldo, esattamente. Più che altro ci riporta indietro nel tempo. Sì, esatto, cioè, quando c'erano proprio questi suoni così, se vogliamo, un po' diversi da quelli attuali, ma insomma sempre comunque sì, pieni di tanta gioia e tanta voglia di ascoltare musica. Sì, hanno più anima rispetto a quelli, sì, esatto, di adesso, che sono molto troppo computerizzati. Il computer ha vinto sull'anima musicale, cosa dici, Luca, secondo te? No, non proprio. No, però difficile, forse sul registramento. Registrare i pezzi, ci sono delle tecniche molto particolari. Sì, eccetera, adesso. Ma i suoni devono essere sempre vivi, sì, devono rimanere vivi, e secondo me i suoni dei Borderline Symphony sono vivi, assolutamente, e reali, esattamente. E diciamo anche perché vi chiamate così. Un critico ha scritto nella vostra biografia: perché siete terra di confine, è così, Borderline, sì, Symphony, sì. Un gioco di parole, esattamente, un progetto tra confini. Sì, esattamente. E Symphony forse è un po'... non lo so, forse... Dimmi. È un po'... fa l'impressione che è un po' arrogante. ma qualche volta abbiamo... quando facciamo i pezzi abbiamo... pensiamo pure a musica classica. Per gli arrangiamenti, certamente, tipo flauti e queste cose. Ma avete avete studiato anche musica classica? No, assolutamente. Non siamo né te né Filippo, praticamente. No. Però le tastiere, le suonate, chiaramente musica classica non sono le tastiere. Però questo uso delle tastiere è molto interessante, okay, anche molto melodioso. È un po' primitivo, ma... va bene, primitivo. Cioè, sì, primitivo per modo di dire, visto che l'avete inciso voi, l'avete registrato voi, avete fatto tutto voi, siete stati bravi. Un critico ha scritto: bravi ragazzi, aveva scritto un critico, e ha scritto bene. Non è semplice, okay, è una cosa abbastanza complicata. Tu hai detto che hai avuto fatica per fare il disco, non è stata una cosa così. Sì, sì. E forse abbiamo messo più importanza sui suoni. Ah, ho capito, avete curato i suoni. Sì, sì. Non... le melodie forse per la voce, ma quelli del piano non lo so, non sono semplici. Sì, sono semplici, però entrano immediatamente, anche sì, se sono semplici. Se una melodia è semplice, però entra in circolo, come si dice, piace immediatamente, vuol dire che è valida la melodia, al di là di tutto, secondo noi della redazione qui presenti. Grazie. Stasera. Benissimo, sono le 22:45. Un critico sempre ha scritto che questo pezzo che abbiamo sentito, che ricorda quel famoso film che tu hai citato, aveva qualche attinenza, qualche avvicinamento al gruppo dei Baustelle come musicalità. Secondo me no, qualche altro sì, però secondo me non lo vedo vicino ai Baustelle. Baustelle è un gruppo che voi conoscete bene, insomma, è un gruppo che ha un... lo conosciamo, ma non troppo buono. Non troppo bene, insomma. Lo conoscete bene. Siamo un po'... è un po' difficile perché da Zurigo non si sente... A Zurigo chi viene a suonare, i gruppi italiani o presunti italiani? forse di gruppi rock l'unici che l'unici che abbiamo visto a Zurigo erano i Verdena. Ah, i Verdena, sì. Un gruppo indie molto interessante, sì. Molto importante. E poi questi grandi tipo Ligabue e Zucchero. Ah, sono venuti spesso. Ma di questi, no, forse piccola è la... No, le band alternative. Falsa, sì, alternative. Solo i Verdena praticamente. Sì. Ma Zurigo altro... è un posto dove vengono suonati i più grandi musicisti di sempre. Sì, un, posto, un posto centrale, un posto sì, di, sì. Una perché tappa Zurigo pagano bene per ma i biglietti costano tanto a Zurigo, sì, costano parecchio, tantissimo. Come qua d'altro com'è, dimmi, scusa, ti ho interrotto, parla. Dai, vai Luca. Ah, no, dicevi no, che... no, penso che qui sono un po' più economici. Ah, economici, sì. Però a Zurigo vengono a suonare tutti, è una tappa fondamentale, sì, Zurigo, sì, nel tour mondiale di una band, sì. Importante o no, Zurigo, sì, si ferma sempre, in ogni caso. Abbiamo avuto un po', come si chiama? Luck, good luck. Ah. Buona fortuna. Buona fortuna. Sì, siamo fortunati. Comunque, ma è un grande teatro a Zurigo dove vengono a suonare. Ci sono un po' un paio di posti, tipo da 300 persone a 10.000. Ah. C'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto, sì. Quindi c'è una bella sì. Scena. Sì, sì. Sì, musicisti, gruppi svizzeri che suonano ce ne sono pochi. No, pochi. Pochi che siamo com'è la situazione lì musicale in Svizzera? È un po' sinceramente non ascoltiamo molti gruppi svizzeri perché cantano tutto in inglese chiaramente non lo so. No, non ci sono gruppi di un certo valore, insomma. Ci sono forse 5 una forse, 5, forse più cantautori, forse cantautori, no, non più. Prima volta. Forse negli anni 70 ce n'era qualcuno, vero? Adesso non più. Io ti dico, ti spiego. Tempo fa è venuto a suonare una band che veniva dal canton Ticino, dal cantone italiano. Oh. E lui, sta band, mi diceva che la radio della Svizzera italiana li ha ospitati più di una volta a suonare. Non so se capiterà anche a voi. Bisogna andare nel cantone italiano, però. Perché voi siete del cantone tedesco. Sì, sì. È un po' difficile. Ma ci sono radio di questo tipo che cercano di trasmettere le band emergenti. Sì, sì, ci sono. Per esempio, settimana prossima suoniamo a Berna. Ah, vedi. È un po' curioso perché non lo so che... Ti hanno contattato praticamente. Sì, perché sono interessati, non lo so. Bene, è una cosa positiva. Sì, una cosa molto mi positiva. Sembra un po' strano, ma... Perché? È il contesto italiano, ma non lo so. Ma il disco circolerà anche in Svizzera, chiaramente. Sì, ma non abbiamo fatto troppa pubblicità. Sì. Ho capito. Sì. Bene, 22:50 quasi. Adesso sentiamo un altro pezzo dal disco, sì, chiaramente. Che traccia abbiamo scelto adesso, ti ricordi? La traccia numero 4. La vuoi spiegare, Luca, un momento? Okay. Si chiama Non un agente e racconta una storia che... Ride Filippo, sì. Ride, perché l'ha scritta lui, Filippo, il testo l'ha scritto. Sì, non è un arrangiamento tuo. Tutte e due, sì. Era una storia, abbiamo incontrato un tipo che, americano a Zurigo che voleva, non lo so che voleva, ma ha detto che è un manager di gruppi. Ah, e poi, era interessato a voi, insomma. Sì, ma era un po' una conversazione stranissima. E poi alla fine abbiamo... scoperto che è un bluff. Sì, sì. Bene. Ok, adesso sentiamo. Pure canzone vecchia. È una canzone vecchia anche questa. Adesso la sentiamo. Come manager di gruppi rock, abbiamo incontrato in una zona ricca al centro di Torino, in un bar americano frequentato da casalinghe e banchieri. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Questo non è proprio lo-fi, è proprio ben pieno di riferimenti, di accenni, di loop. Bello, bello, molto interessante, molto rock, possiamo dire. Proprio rock, con rock. Non è che è troppo rock, è un po' troppo distorsione, non lo so. È bello, le distorsioni fanno bene alla salute, secondo me. Io sono un vecchio rocchettaro, caro Luca. Bella. No, come mai questo bello arrangiamento mosso con un bel muro di chitarre? La chitarra elettrica la suona di te in questo pezzo? Sì. Com'è la... scusa? No, la domanda... come mai questo muro, questa forza nell'arrangiamento che ha voluto proprio forzare rispetto agli altri, sono meno potenti? Infatti è un po' la batteria che è la un batteria? Po' all'indietro, così le chitarre vengono più avanti, un po' sì, esattamente, sì. Come si usava una volta, sì. Esattamente. Ma sono abbastanza distorte, diciamo. E volevo fare un po', non so, un contrappunto. Sì, dare un momento di diversità alla serie delle tracce. Sì. E la batteria un po' più dietro, avevi suonato un vostro amico? Sì, sì, no, sì. Te lo ricordi chi ha suonato la batteria qua? Patrick si chiama. Patrick. Ma lo salutiamo se ci siete via internet. È un batterista abbastanza come Patrick Kung. Sì, è abbastanza rock. Abbastanza, diciamo, energico. È un po', viene un po' dal hardcore. Allora, hardcore punk. Non quindi, è proprio. Quindi batteva abbastanza. Sì, sì, dovevamo dire un po'. Calmati. Sì, calmati un po'. Leggermente, perché in studio si dava da fare. Sì, sì, sì. Ma l'avete registrato in uno studio a Zurigo sempre? No, non era uno studio, era la nostra sala prove. La vostra sala prove, sì. Che faceva da studio. Cioè 3-4 brani, abbiamo fatto la batteria in un piccolo studio, ma non proprio professionale. Avete un po' attaccato le cose. Sì, sì. Avete fatto era un po' complicato. È un po' complicato, sì, ma bisogna darsi da fare. Anche in questo punto di vista siete stati bravi, perché avete portato avanti un progetto. Lo fai per quel motivo là, mi spiegavi, non è registrato in uno studio professionale, ma si sente ottimamente, si sente bene, l'effetto è chiaro. E questo è un pezzo lampante di effetto, pieno di effetti, di okay. Un bel muro di chitarre, piacevole, assolutamente. Mi piace sentire questo. Bene, dal vivo davanti a un palcoscenico, un pubblico, come lo intendi fare questo pezzo? Hai un sacco di aggeggi per creare tutte queste atmosfere, oppure no? Stasera infatti, non possiamo usare il riverbero o cose simili. Sì, sì. Infatti è un po' difficile. Quando nel futuro, quando facciamo concerti... Sì. Quando sarete a Berna fra qualche giorno. Questa a Berna è pure così acustica. Acustico forse chitarra elettrica ancora non lo sappiamo. Ma Poi in autunno vogliamo fare un po' concerti con un batterista e poi pure con un altro componente. Sì, che ci aiuta con tastiere o basso. Non quindi aiuta sia Filippo sia te, sì, praticamente. Sì, sì. Quindi potete allargare la band, renderla più grande. Sì. E infatti, come l'hai detto tu, è difficile. Molti pezzi sono difficili a suonare live perché... Sono troppe tracce, troppi effetti. Beh, suonando gli acustici perdono, probabilmente questo perde l'intensità, la forza di questo pezzo, suonando l'acustico. Ma a Berna lo suonerete acustico questo qua? Forse sì. Ma solo in due, questo è sicuro. Due. Certo, questo è chiaro. Sì, forse faccio con chitarra elettrica. Non so. Un po' di effetto lo metti, sì, allora, sì, praticamente. Forse. Ma originariamente questo pezzo l'hai creato chitarra acustica e basta, e poi hai chiaramente... No, questo era un po' speciale perché l'abbiamo creato tutte e due. Ah, suonato un Filippo. Po' in jam così e poi è riuscito questo riff, diciamo. Mm. È andato bene, quindi poi l'avete sviluppato. Sì, cioè. Sì. Bene, una cosa positiva. Sempre nel studio tuo, praticamente, in casa tua. Sì, praticamente. Sì, sì. Come nascono i testi delle tue canzoni, delle vostre canzoni? I testi è un po'. Come si chiama? Una volta così, una volta così. A seconda. Qualche testi erano prima in inglese, poi li ho fatti in italiano. E poi ma prendi spunto da qualche avvenimento che ti accade, da qualcosa sì, della sì. tua vita privata? Sì, molte cose sono piccole storiette che ho. Come dire? Hai creato, hai visto, che hai sviluppato sulla carta. E qualche altro sono un po' una un'invenzione. Sì, ho capito. Ma i testi scrivi tutti te o li scrivi anche Filippo assieme? Fino adesso tutti io. Hai scritto tutti te. Ma adesso stiamo lavorando in un pezzo che lui fa pure qualcosa. Scrive qualcosa di testi. Bene. E suoniamo qualcosa Filippo e Luca. Ok. Che allora, cosa? Questo si chiama Ora di partire. Facciamo una versione acustica un po' lenta, ma sull'album è più o meno è un po' tipo post-punk. Un po' duretta. Un po' veloce. Sì. Veloce, sì. Facciamo il contrario. Proviamo. Proviamo. Vogliono essere famosi e trattati come star. Tutti vogliono essere capaci, essere di sangue. È ora di capire, è ora di sparire. È ora di capire, la la la la la la. È ora di uscire, eppure di lasciare. È ora di sparare, la la la la la la. Siamo americani, abbiamo tutti le ali e siamo individuali. Siamo tutti bravi, abbiamo tutti cani e siamo tutti mondiali. È ora di capire, è ora di sparire, è ora di sparare, la la la la la. È ora di uscire eppure rilasciare. È ora di sparare, la la la la la. Adesso me ne vado come un affamato. Mi sento proprio in grado a prendere l'aeroplano per un posto sano. niente è lontano, niente è lontano. Sano, niente è lontano, niente è lontano. Finale con Filippo con la tastiera che la coda, beh, la coda psichedelica, sì, assolutamente. Sì. E questo era un pezzo che tu hai reso, avete reso in forma acustica, però è un pezzo punk, si sente dal testo, sì. Un testo liberatorio, sì, sì. Molto liberatorio. Sì, decisamente un'atmosfera punk, bello, deve essere durissimo, cioè è dura, è abbastanza veloce nel disco chiaramente, mm-hmm. E si consuma in pochi secondi praticamente, sì, sì. Qua si consuma in più secondi, ma giustamente in una versione acustica. E quindi con la band allargata sarà una cosa da fumicotone questo qua. Sì, sì, sì. No? Cosa dici? Ecco, in quattro sarebbe meglio. Una bella batteria, sì, pesante, sì, e via. Fa bene, fa parte. Senti, Luca, a proposito di band allargata, come vi proponete voi nei concerti che fate dal vivo? Sempre tu e Filippo o ci aggiungete comunque sempre delle altre persone quando suonate dal vivo? Prima l'abbiamo fatto così, siamo stati in tre con un batterista. Sì. Ma... i pezzi più vecchi erano possibili così, ma questi nuovi adesso non va più. Allora adesso in autunno cominciamo con un batterista e poi forse un'altra persona che ci aiuta. Sì, una chitarrista, un bassista? Pure tastiere forse. Ancora tastiere? Sì, sì. Sì, ma tastiere sono una parte integrante della vostra, sì, musica. Vero. La chitarra forse basta una. Sì, ma quella distorta. Sì. Quella fa bene sempre. È un Gero Vitale, secondo me. È un Gero Vitale la chitarra. Un po' di Jimi Hendrix. Fa sempre bene, quello fa sempre, sì, bene, sì. Cosa dici? È un medicamento. A proposito, sai che Jimi è ritornato in classifica col disco che è stato ristampato, un disco nuovo di Jimi Hendrix. E ho visto nella classifica di Billboard di questa settimana, era terzo posto. Quindi. Allora la gente ascolta sempre lo rock. Il rock gira e rigira, è sempre quello, si ascolta sempre volentieri. Vedi il caso eclatante di Led Zeppelin, che bene o male ci sono sempre sulla bocca di tutti. Pink Floyd, il 40° anniversario di The Dark Side, tutte queste cose. Qualcuno dirà, ma parlate sempre di vecchi. Lo so che parliamo sempre di vecchi, però sono maestri. Esatto, sono maestri. Tu hai detto una cosa giusta, sono maestri. A proposito di vecchi, noi qui abbiamo un giochetto molto semplice. Te lo spiego semplicemente. Poi tradurrai anche quello che dirà Filippo. Va bene. Stavolta devi farlo per forza. Vero, Agostino? Puoi spiegarlo a te, che tu sei il conduttore base del programma. No, che base, per altezza. Ma base nel senso proprio. Allora, Luca, no, ti spiego, noi facciamo questa domanda, che comunque è una domanda che fanno tantissimi altri speaker, altre radio, perché cerchiamo di capire i gusti musicali degli artisti che ci vengono a trovare. Okay. E chiediamo, se tu vai in un'isola deserta, ipotetica, che dischi ti porteresti? Ovvero sia, cosa ti piace? Cioè, tre dischi a cui non puoi rinunciare. Tre dischi. Che fanno parte della tua discografia. L'immagine, okay, quella dell'isola deserta è solo per dirti che devi, okay, per forza scegliere tre dischi. Ok, difficilissimo. Aspetta, lo so. Lo aspetta. Spiego a Filippo. Sì, sì, sì, sì. Spiego a Filippo, live. Dabbè, io ricordo che questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante, mentre lui sta traducendo il tutto. Tutto in tedesco. Io ho chiuso il microfono perché altrimenti poi si confonde. Allora, dicevo, le nostre frequenze 88.794 e 600 MHz in modulazione di frequenza. Questa è la voce di Agostino, eccezionalmente questa sera, con un'altra eccezione, cioè Maurizio Calzavara. Sì, eccezionalmente, siamo tutti eccezionali stasera. Questa è la serata di Stefano. Di Stefano, che ricordiamo non ha potuto partecipare, non è potuto venire questa sera perché non sta molto bene, quindi malattie. Ma tornerà sicuramente lunedì. Malattie stagionali, certo. E ribadiamo il nostro augurio. Ciao Stefano, se ci stai ascoltando, mi raccomando, aspirina sotto le coperte, suda, che poi ti passa tutto. Allora, Luca, hai spiegato a Filippo? A Filippo. Sì, sì. Abbiamo un po' di tempo, sì. Abbiamo un'altra oretta. Vuoi che facciamo ascoltare qualcosa dal disco e poi così ci pensi? Io nel frattempo ricordo anche i nostri numeri telefonici, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre per gli sms è sempre quello, carta e penna come sempre, segnatevelo perché in qualsiasi momento voi potete mandare un sms, è il 346 23 20 033. Io aggiungo anche che se volete risparmiare i soldi di un sms potete tranquillamente scriverci sulle nostre pagine di Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, e l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico che è Alberto Prisco, che salutiamo ancora nuovamente, che è il curatore di questo programma e di tutti i live che si succedono, i tanti live il martedì, mercoledì, insomma, e anche il lunedì, anche giovedì qualche volta capita che magari mi aiuta anche lui. Esattamente. E allora quindi potete tranquillamente scriverci anche su Facebook, verranno comunque poi letti, oppure anche nella pagina mia, nella pagina di Maurizio, se per caso siamo in diretta qui in questa emittente. Quindi mi raccomando, scriveteci, fateci sapere che cosa ne pensate, qualche consiglio, qualche domanda, perché no, sono sempre ben accetti tutti. Siamo pronti? Ci sentiamo il pezzo da disco, così dopo Luca e Filippo devono pensare ai dischi da portare. Facciamo, sul disco deserto. Luca, facciamo terrorismo adesso proprio. Ok, va bene, facciamo quello. Come mai terrorismo? L'ascoltiamo, poi ce la spieghi. Sì, certo. Thank you. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 23:12, siamo assolutamente in diretta oggi che è lunedì 18 marzo 2013 con Agostino, con Maurizio, come dicevamo prima, ma soprattutto con i Borderline Symphony. Due ragazzi sono venuti a trovarci dalla Svizzera, da Zurigo, e ci fa molto piacere avere anche artisti esteri come in questa sera, insomma. Allora, Luca Poglioni, ricordo, e Filippo Argento. Luca, questo titolo, Terrorismo. Come dire, questa canzone, insomma, è forse un po' una provocazione. Sì, un pochetto, perché la parola è stata usata troppe volte, certo, soprattutto dopo l'11 settembre. Vero. Ma non è tipo, non voglio dire qualcosa fondamentale, è un po' un gioco. Non troppo serio. Citi anche Rete 4, è quella Rete 4 nostra o è una Rete 4 diversa? Rete 4 italiana? E questa è italiana. Ah, italiana. Benissimo. È una canzone che si consuma immediatamente, post-punk assolutamente, punk fino alla budella. Veloce, si deve consumare così. Sì, sì. Ed è irresistibile, porta a porta movimento, al di là dell'idea del discorso del terrorismo, cioè come titolo. Porta a movimento, chiaramente. Volevo mettere pure un po' di rock and roll, cioè una chitarra tipo, sì, ma forse non si sente troppo. No, c'era. Potrebbe essere un po' più accentuata. Un po' più accentuata, sì, esattamente. Sì. Bene, siete pronti allora? Ci hai pensato? Ci avete pensato? Filippo incomincia. Filippo incomincia. Parla vicino al microfono. Adesso vediamo, dopo traduci te. Maurizio, avvicinati al microfono. Allora, il primo album è Loveless per My Bloody Valentine. Che bravo, parla in italiano, bravo Filippo. Impara subito. Lascialo sì. Lì. Vediamo. Prendi quello. Aspetta un momento, che parliamo di Bloody Valentine, gruppo che adesso è ritornato in auge con un disco nuovo pubblicato di recente. È proprio un gruppo che ha fatto scuola. Complimenti Filippo che hai scelto Bloody Valentine. Grazie. E poi il secondo disco. E Pink Floyd cosa? Con Animals. Vedi Agostino, ha scelto Animals lui. Come mai hai scelto Animals? Ti faccio la domanda con calma. Come mai hai scelto Animals? Hai voluto Animals e non so, The Dark, Wish You Were Here o that, or The Wall. Come mai hai scelto Animals, proprio quel disco là, che ha avuto delle critiche? Ho visto Animals. Come mai? E il più prog. Ah, il più prog. Sì. Ho capito. E il song Dogs. Da tutto praticamente. Ho capito. È un po'. Un po' più. Creatività. Sì, è molto più creativo. È un po' diverso degli altri. Sì. Ecco. L'ha pescato subito. È bellissimo. Yeah. Poi c'è questa fabbrica di Liverpool nella copertina. Esattamente. Meraviglioso. E poi? E poi, come un altro, Filippo? È difficile, ma prendo Radiohead. Ok Computer. Questa la puoi tirare fuori, Ok Computer, un pezzo, quello famosissimo, Ok Computer. Perché parliamo di Ok Computer, Filippo, Tom York è un grandissimo musicista, un genio praticamente, sì. Il nuovo genio. Il musicista più importante adesso, che fa tendenza, quindi giustamente hai scelto i Radiohead. Li hai visti dal vivo qualche volta? Sì, due o tre volte. Sì. Bravissimi. Live sono bravi. Sono bravi, sì. Veramente molto bravi. Ecco, adesso sta arrivando. Ecco, lo vedi. Ok, adesso tocca a te, Luca. Ok, allora vedete che ascoltiamo qualche secondo. Sì, ok. Hai visto che si muoveva anche lui? Quando uno sceglie un pezzo, un disco di riferimento, si muove anche, si vede, ama, è soddisfatto. Vai Luca. Ok, per primo prendo una compilation dei Kinks con tutti i Kinks. Ray Davis, un genio, assolutamente un genio. È come una droga. È bello, hai fatto una cosa molto bella. Ti ispiri, cioè, hai qualche riferimento agli anni 60? Vediamo se riesci a tirare fuori i Kinks, è molto difficile. C'è qualche riferimento agli anni 60? Ray Davis è un grande genio, ha fatto delle cose meravigliose. Soprattutto pure i suoni mi piacciono tanto. Ti piacciono degli tanto? Anni 60. Molto... Dalla batteria fino alle chitarre. Esattamente. Tutto, le voci. Erano bravissimi. I Kinks sono sempre... È stato lui. Le composizioni, ovviamente. Esattamente. E poi per secondo prendo un live di Fabrizio De André con i PFM. Quale? Tutte e due. Parte uno, parte due. Sì, parte uno. Posso? Come no? Hai fatto bene. Ok, questo mi piace molto. Ti piace molto? Sì. Quante volte? L'hai sentito più di una volta allora? Parecchie volte, 100 volte. Adesso fra poco, a proposito, visto sì, che ne approfittiamo. Approfitta, dai, vai. C'è un grande appuntamento, è un grande momento che verrà fatto qui a Blue Radio Veneto. È un'idea partita da me e da Maurizio. Vogliamo regalarvi l'intera opera, cioè La Buona Novella, giovedì prossimo dalle 21 fino a quando avremo voglia di stare qui, fino alle 23 più o meno abbondantemente, dal vivo con Dario Petucco e i suoi specchi lontani, che verranno qui a farci compagnia, a suonare dal vivo, e quindi ascolteremo un po' dal vivo, un po' dal disco, un po' con la PFM. Insomma, vogliamo regalarvi l'intera opera di Fabrizio De André, La Buona Novella. Quindi ti invito anche a te, Luca e Filippo, ovviamente, via internet, in streaming, di ascoltare la settimana prossima. Sì, tu hai citato giovedì prossimo dalle 21. Sì. Alle 21. Tu hai citato giustamente i due album con la PFM. Sì. Il secondo album ha parecchi pezzi dalla Buona Novella, ti ricordi? Okay. Disco meraviglioso. Lui è bravo, era sempre stato un genio e si è accompagnato dai grossi geni come il PFM. A Zurigo sono venuti a suonare la PFM, mi pare sì tempo fa. Sì, mi sa. Forse tu non li hai visti però. No. No, però sono venuti a suonare un po' di tempo fa, sì. Benissimo, quindi questi primi i due album con la PFM di Fabrizio De André. E poi Luca? Poi per terzo prendo un album nuovo. Bene. Dei Tame Impala, che mi piace molto. Mi sa che è dell'anno scorso. Come mai hai scelto questo titolo? Questa band? Perché sono composizioni bellissime. Eppure c'è il suono. È un nerd dai suoni, come si dice. Sì. Questo tipo australiano. Australiano, esatto, sì. Mi piace molto. Ti piace molto. Benissimo. Ok, abbiamo parlato, abbiamo esplorato i gusti di Luca e di Filippo. Complimenti a Filippo che ha parlato benissimo l'italiano, quindi è una cosa molto positiva. E non soltanto, quindi non è vero che avete delle difficoltà. Sì, avete delle difficoltà, perché state superando. Forse dovreste venire più qui a Blue Radio. Esatto, più spesso, così imparate meglio. Tutte le settimane. Allunghiamo il pubblico. Ma Filippo, tu capisci quello che noi diciamo? Un poco. Lenta, però qualcosa sì. Qualcosa sì. Ha studiato lingue, così capisce un po'. Ha studiato lingue lui. Forse ogni seconda parola. Sì, riesce a percepire, giusto? Sì. È una cosa molto positiva. Certo. 23:20, quasi 23:21 in questo momento. Cosa abbiamo in scaletta adesso, secondo te? Ma abbiamo un pezzo dal disco che è It's All About la traccia numero 11, è quella bella lunga? Sì. La sentiamo e poi ne parliamo, che è molto interessante questa traccia. È quella che chiude il disco, praticamente. Esattamente. Sì, okay. Che credo che sia l'unica che abbia il titolo in inglese. In inglese, sì, esattamente. È l'unica cantata in inglese. Però è molto interessante come costruzione, molto lunga, molto psichedelica. La sentiamo e poi ne parliamo, ok? Ok. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Un trip psichedelico di 8 minuti e passa. Che bello, non finisce più. Potevi continuare all'infinito, o no? Sì. Bello. Grazie. È sempre positivo quando si sente certe cose. Io ho una certa età, so, io sono netto, quindi proprio, finalmente l'hai capita. Sì. Gli anni non sembra, ma te lo dico io. Ti ringrazio. In ogni caso, questi anni 60 riveduti e corretti da parte tua e da parte di Filippo. Questo tastiera, questo continuo loop che non finiva mai, questa tastiera chiaramente avvolgente e la chitarra elettrica proprio distorta, che bello, distorta. Come doveva essere distorta? L'idea è stata geniale. Quasi 9 minuti, ragazzi. Non abbiamo tagliato niente. Non si taglia mai. Fino all'ultimo secondo. È una bella idea. Come mai è nata l'idea? Questo brano atipico rispetto agli altri. Un brano atipico. Un po' fuori. È l'ultima traccia, ma è un po' fuori rispetto agli altri. L'idea non lo so. Forse era un periodo che abbiamo ascoltato un po' dei gruppi... Belli tosti. Sì. Anni poi, 60. Sì. Vintage. Ma vintage, sì, per modo di dire. Questi sono forti. Sempre lo stesso... loop, questo continuo. E dal vivo questo è un pezzo che può andare avanti minuti sopra minuti alla Grateful Dead, praticamente 30-40 minuti, sto scherzando, ma 15 minuti sicuri, 8 solo dal disco, quindi dal vivo si può allargare. E poi la batteria, il vostro amico si dava da fare, Patrick ci dava dentro, si dava dentro, sì, bene, sì. Filippo è d'accordo, anche Filippo si dava da fare, mi pare, con le tastiere, sì. Giocava, si divertiva, però si sentiva che era una cosa che era dentro, veniva da dentro, l'idea vostra veniva proprio da dentro, quindi è una cosa che voi amate assolutamente. E infatti questa abbiamo come si dice, composta dal vivo, direttamente, sì, no, La prima volta è la buona, insomma. No. No, vuol dire la struttura. Ah, la struttura. Fatto, ma poi gli arrangiamenti ovviamente venivano dopo, no? Ma ho capito. La struttura principale. Quanto ci hai messo a fare questo disco, Luca? 5 anni. Sì, 5 anni, ma no, forse è un po'... un po' troppo falso se si dice così. Era in questo periodo di 5 anni, ma abbiamo fatto delle pause certe volte, sì, non sempre avete fatto un po' di concerti. E poi qual è l'ultima canzone che avete scritto, che è stata poi messa nel disco? L'ultima era, non lo so, era semplice curiosità la mia, mi sa, la prima mi sa, per quella che iniziava l'album, sì, praticamente, sì, mi sa questa. Quella che parlava di Morricone, praticamente, quella strumentale, sì. Era l'ultima, e però l'avete messa come prima, vedi? Sì, perché piaceva subito, sì. E forse è anche bella per inizio, no? Sì, beh, cioè, certo, strumentale, esattamente. E avete altre già pronte per il prossimo disco? Sì, sì, abbiamo un paio di pezzi, ma ancora non sappiamo come arrangiarli. Questo è un po' alla volta. Sì. Benissimo, sono le 23:33. Adesso Luca e Filippo hanno deciso di suonare un pezzo dal vivo. Che cosa, Luca e Filippo? Questo si chiama Fiume d'Oro. Fiume d'Oro. È un po' una versione abbastanza differente dall'album. Sì. Ok. Rientrato in albergo per una doccia all'alba, faceva un caldo da morire, e poi ho preso il primo autobus dell'aeroporto vicino al mare. L'aereo serviva una colazione, e poi ho dormito sull'Adriatico. ricordi di un ruscello carino diventavano pensieri di un fiume devastante e sempre crescendo. Non vedevo più la sorgente, ho visto le onde avvicinandomi e poi ho dormito sull'Adriatico. Benissimo, era una ballata quasi donoviana, possiamo dire, anni 60, vicina, molto ecologica, possiamo dire, parlava di fiume, parlava di Adriatico, di mare, eccetera. E chiaramente questa è la versione dal vivo, fatta qui negli studi, un po' diversa la versione del disco, però l'idea della ballata c'è sempre, cosa dici Luca? Sì, qui forse un po' troppo. Un po' troppo. Nell'album è quasi... tutta un'altra cosa. Sì, decisamente diversa. Sì, però sì. È una versione diversa. Sì, sì. Avete inventato, avete per questa trasmissione, assolutamente dal vivo, per la prima volta l'avete suonata così. Sì, è una sì. Cosa poi positiva. Vediamo la registrazione, se è venuta bella. Perché no? No, beh, anche Filippo l'ha suonata come fosse una ballata. Sì, sì. Proprio ti ha accompagnato, possiamo sì. Dire questo. Ci piacciono le... non lo so se le ballate degli anni 60 quelle italiane sì. Tipo Nicola Di Bari ho capito ti piaceva sì, Nicola Di Bari cose, sì. Bene ma mai senti come mai ti hai dato fuori Nicola Di Bari sì, adesso sottofondo c'è Donovan l'abbiamo scoperto di un film no, la prima cosa bella vedi Mastandrea sì. Ma tanti altri li conosco della mia mamma. Ah, tua mamma ti fa sentire. Sì. La prima cosa bella è un grande successo sanremese, sì. Praticamente. Nicola so, Di Bari, dimmi. Non lo so se in Italia oggi si sentono questi... No, Nicola Di Bari non forse si sente più. Troppo kitsch, non lo so. Sì, forse hai detto... Che pensano? Sì, troppo kitsch, nel senso che posso passato, possiamo dire sì, così. Sì. No, a 43 anni questa canzone. lo so, però loro... Ma è bellissima. Vedi, eccola qua. E suono per te. Certo che torniamo indietro con il tempo, sì. Maurizio. Sanremo Docet. C'è poco da fare. Del Festival Sanremo l'avete visto? La vedete in Svizzera? No. Però tua mamma lo conosce perché secondo me è la prima cosa bella di Nicola Di Bari. Sì. Bene, bene. È una cosa positiva, dai. Nicola Di Bari, dicevi, perché non lo sentiamo più da una vita. Dicono che sia ancora... Dicono. È abbastanza famoso in America Latina. Ah, sì? Sì, quindi Argentina, Cile... Okay. Come adesso c'è anche un'altra grande famosa in America Latina, è Laura Pausini. La conoscete anche a Zurigo, sì, sicuramente. Sì. Però la prima cosa bella è una cosa... Non sapevo che Nicola Di Bari ha colpito anche... nei borderline simboli. Si sa mai, non si sa mai. Filippo mi sa di no, solo io. Filippo mi sa di... non lo conosce. Filippo no, no, non conosce la prima cosa bella. No, non lo conosce. Hai altri artisti che ti hanno colpito degli anni 60? Esattamente, qualche altro artista. Che ne so, Mario Tessuto. Dice gli occhi blu. Non lo conosci. Minoritano. Non lo conosco. Adriano Celentano. Questo sì. E quello lo conosci. Little Tony. Anche quello. Bobby Solo. Sì, questo. Quindi conosci però quelli. Conosco, ma non troppo. Non troppo. Sì. Però va bene, è una conoscenza anche quella. È la melodia, possiamo dire, sì, questo. Ecco. Più che altro. Soprattutto per la melodia. Esatto, sì. noi stiamo scherzando chiaramente adesso, però è la melodia che è quella che conta. Sì, Praticamente il vostro è un disco assoluto. Ecco, questo è il cuore matto. E si sta scatenando Agostino. E giorno e notte pensa solo a te. Questo conosci. Mi piaceva pure quell'album di Mike Patton, Mondo Cane. Ah. Che ha registrato, sì, vecchie canzoni. Sì, vecchie canzoni, esattamente. E le ha riprese, sì, esattamente. Sì. E beh, posso dirti una cosa? Penso che sono 20 anni che non mettiamo su la prima cosa bella, l'ha messo su Agostino. No, perché non sia un bel pezzo, è un bel pezzo, ma in questa trasmissione identificata come rock è un po' fuori, però, leggermente fuori. Però è un sempre troppo new wave. Esatto, low five probabilmente. 23:41, adesso sentiamo. Mi sembra un organo che vibra. Sai chi è questo, Maurizio? Chi è? Mike Patton. Sì. Sì, lo sapevo che era lui, perché volevo... In ogni caso facciamo così, adesso Luca e Filippo ci hanno chiesto di far sentire la traccia numero 2 del disco. Adesso l'ascoltiamo e poi ne parliamo. Torniamo alla canzone che abbiamo ascoltato, sì, in acustica. Esatto. Suonato prima. Esattamente, la sentiamo com'era effettivamente nel, sì, disco. La notte del dottor Dolce Vita. Esattamente. Levanto come la vittima, vedo la Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ancora una quindicina di minuti con i Borderline Symphony, ovvero con Luca Poglioni e Filippo Argento qui a Blu Radio Veneto dal vivo, con la presentazione del loro disco uscito l'anno scorso, se non sbaglio, dal titolo Ragazze con Pistole. E a proposito di questo pezzo, che abbiamo sentito prima in versione acustica, adesso l'abbiamo sentita da disco, questa citazione dei grandi del cinema, secondo me poteva anche essere così velatamente una pseudo colonna sonora in alcuni momenti, Luca e Filippo, in qualche spezzone, al di là, secondo me, al di là del testo che omaggia i grandi del cinema, poteva anche essere l'idea di una colonna sonora. Non è mai venuta per la mente di fare qualcosa per il cinema, cioè scrivere proprio pezzi per il cinema? Sì, ci è venuta, ma non adesso, non per questa, non per questo, per questo progetto praticamente. No, sì, per questo progetto sì, ma non per questo pezzo. Io l'ho sentito così. La prima siamo d'accordo, sì. La prima siamo d'accordo. Però anche questo in qualche riferimento, in qualche momento l'aveva. Chiaramente è un mio punto di vista. Mm. Ma il discorso di lavorare per il cinema sarebbe una cosa positiva per voi? Piacevole? Certo. Fare colonne sonore. Sì. Sembra una cosa meravigliosa, e non si sa mai, no? Sì. Ti piacerebbe fare dalla colonna sonora di un film di Sergio Leone? Non c'è più, purtroppo. Forse no, perché si può solo fa schifo copiare in modo negativo. Adesso c'è Quentin Tarantino che ha fatto un western, quindi. E prende le canzoni di Morricone, esattamente. Quello sì, sì. Certo. Però è interessante il discorso. C'è un gruppo in Italia, si chiamano Calibro 35, che riprendono le canzoni del film, le riprendono proprio come colonna sonora, le riadattano, fanno proprio colonna sonora di musiche da film. E l'altro giorno è venuto qua un gruppo, tempo fa, che era un gruppo sardo, scorsa settimana, che anche lui anni prima aveva ripreso i film. Questo uno dei partecipanti al gruppo sardo è un esperto di cinema, aveva ripreso proprio i pezzi dei film, ma non solamente a tema, tutti quanti, gli aveva dato un'idea sua, li aveva riadattati, li aveva suonati, un po' di anni fa, molti anni fa. È un gruppo sardo questo qua, che è venuto a suonare lunedì scorso, abbastanza famoso qui da noi. Ma è interessante, cioè aveva quell'idea del cinema come la tua praticamente, lui gli adattava i pezzi e li suonava praticamente. Benissimo, 23.49, quasi 23.50. Io direi di far ascoltare ancora una canzone, sì, sentiamo dal disco. Un altro pezzo, dai. E poi torniamo in studio per i saluti finali. Prima però ci ascoltiamo Ora di partire, proprio l'ora di partire, Maurizio, quasi. Quasi, non loro, sono ancora qua, quando se ne andranno anche loro fra poco. Però quando sarà l'ora giusta. L'ora di partire sentiamo sempre dalla band che viene da Zurigo. Thank you. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Abbiamo sentito questa versione bella, divertente, chiaramente del brano. E adesso siamo quasi alla conclusione, dobbiamo fare una cosa importante. Ci facciamo dire dove si possono... Esattamente, esattamente. Allora, intanto dove vi possono contattare, Luca? C'è un sito che si chiama borderlinesymphony.blogspot.ch oppure it, va pure it. Poi c'è un profilo Facebook e l'album si può scaricare su iTunes, Amazon, eccetera, e non costa molto, mi sa che 10-12 euro o qualcosa, no? Del genere. È abbordabile, assolutamente. Sì, sì. E beh, è importante, bisogna dirlo, ste robe. Sì, sì. O comunque si può acquistare anche nei vostri concerti. Sì, se ci si è in futuro. Ma adesso, c'è solo questo. Ricordiamo la data, dai. La data che farete fra poco a Berna. È il prossimo giovedì. Giovedì prossimo. Si chiama Radio Rabi. Mm. Poi su Facebook mettiamo l'indirizzo web. Il 28, mi sa. Sì. Giovedì 21, il prossimo 28. Sì. Quindi suonate in questa radio di Berna. Sì, sì. E poi vedremo. Vedremo cosa succederà. Caso lui... che qualcuno lo compra. Speriamo di sì, assolutamente. Poi l'hanno ci hanno già promesso di venire per il prossimo disco loro. Certo. Insomma, bisogna chiedere a loro se sono stati bene, ovviamente. Io spero di sì. Cosa volevo chiedervi ancora? Niente, credo che abbiamo detto tutto, insomma, penso possiamo chiudere qui. Prima però ci ascoltiamo l'ultima canzone. Cosa ci fate ascoltare? L'ultima, facciamo Meduse, si chiama. Che è un bel pezzo, tra parentesi. È molto amato dalla critica, anche del sottoscritto. I critici ne hanno parlato benissimo. Un disco, un pezzo validissimo, che vi fa onore musicalmente. Oh, grazie. proviamo un'altra versione. Un esattamente acustica. Sì. Okay. Allora, Maurizio. Io e te ci vediamo giovedì. Giovedì con Marco Sbarbati. Marco Sbarbati. Si parlava di musica da film. Viene a presentare la canzone che hanno preso per fare un film. Ah, vedi. Fa parte della colonna sonora di un film e lui è molto fiero ed orgoglioso di questo. Ce la presenterà qui. È appena uscita, poi, tra l'altro, questa canzone. È una novità assoluta. È una novità, sì, e ce la viene a presentare oltre alla sua musica. Ricordiamo che Marco era venuto già con Spring Groove, che è una cantante americana. E lui che faceva da supporto. Da supporto, invece adesso viene proprio con la sua musica. E ricordiamo domani ci sarà Flavio Bilato alle ore 21 con una rivisitazione molto importante, molto significativa di William Blake, caro Luca. Quindi un musicista parlerà, suonerà e dirà su William Blake, grandissimo poeta. Quindi ha un appuntamento da non perdere domani sera con Flavio Bilato e ci sarò anch'io da supporto. Tu ci sei sempre. Io ci sono sempre. Grazie a Luca e grazie a Filippo. Grazie a voi, grazie mille. A voi. Ci salutiamo con appunto Meduse. Buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto e l'appuntamento è ai prossimi live. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte. Un'estate a Berlino, un quartiere di moda, una vacanza coi hipster, pettinati come il Führer, Ferragosto con mate, una cena vegana, una vita postmoderna, è tutta costruita. Un borgo ecologico, un passeggino tipo Frost, un'estate, un divorzio e pensione completa, una vacanza al mare, una vacanza con carne. Quest'estate mi manca, quest'estate a Rimini.